4 giugno. Ricordo le parole di zio B. Quando sarai capace di fare la comunione per Hitler, forse allora saremo vicino alla pace. Mi sento però tanto lontana da questo eroismo. Se andassi alla comunione con questa intenzione, temo che morderei l'ostia. Non posso superare la mia ripugnanza, l'impeto istintivo del mio odio. Se fosse solo per la mia sofferenza, forse lo potrei perdonare. Ma al pensiero che ha risucchiato l'Austria, oppresso la Cecoslovacchia, dilaniato la Polonia, spinto al sacrificio la Finlandia, invaso la Danimarca, martoriato la Norvegia, terrorizzato l'Olanda, schiantato il Belgio e che ora minaccia di frantumare l'impeto eroico della Francia e svellare la resistenza secolare dell'impero inglese. Quando sento che sta prostituendo l'onore della mia patria, strappandole la sua spiritualità e indipendenza, non riesco più ad avere pazienza.